soffio di speranza. Nel mio cuore un vagabondo, per me solo in questa stanza, senza vetri né finestre, solo muri di tristezze. Di questo gioco ne ho abbastanza, mi rimane l'amarezza. Qui da solo a pensare, cosa dire, che cosa fare, senza amici vicini né un sostegno morale. Qui una gabbia sbagliata, dove è preda di un animale, questa pelle potrà spranare. Passerò inosservato dal presente che ho passato, senza voci nelle orecchie che mi parlano di tristezze. Questa vita mi ha fregato, tutto solo e abbandonato. Penso adesso al mio futuro, ma non ho in mano niente. Riuscirò a rimediare, esco fuori tra la gente, spero solo ad un incontro che mi aiuti poi a scordare tutto quel che mi fa male e rivivere una vita e mai dire che è finita. Qui da solo a pensare, cosa dire, che cosa fare, senza amici vicini né un sostegno morale.